Benvenuti in questa giornata con problemi tecnici perché Discord perché Craig è morto, purtroppo ci ha lasciato. E episodio numero come? Condoglianze Craig. Condoglianze, sì, ma non a Craig, a noi. E episodio numero 160. Parliamo stasera del film numero 102, 103. Che numero è questo film? Dici, sì. Il numero della puntata, dici? Pensavo il no, è il numero di film che ha fatto, sì. Sì, sì. Sui 103 forse, 100, vabbè. E di appunto Nicolas Cage. È un film che aspettavamo da tantissimo tempo, un film uscito più o meno un paio di mesi fa, direi, così a naso. Forse esattamente due mesi fa. Sì, sì. Che fiuto. Il film in questione si chiama The Unbearable Weight of Massive Talent, in italiano tradotto Il talento di Mr. C. Che schifo. Io vi giuro che non so per quale motivo. Almeno c'è talento nel nome, dai. È vero, è vero. Che però lì è il nome, cioè nel titolo in inglese è il soggetto, tipo l'oggetto è il talento. Vabbè, e non è un aggettivo. Comunque, il film in questione è scritto da due autori che non sono Nicolas Cage, ci tengo a sottolinearlo. E uno è Tom Gormican, che è anche il regista, e che è famoso per aver fatto Ghosted, una serie TV di 16 episodi che non so cosa sia, e basta, credo. E l'altro scrittore è Kevin Etten, che ha fatto un sacco di serie TV, anche serie TV belle, e cioè ha scritto alcuni episodi di serie TV, o alcuni dialoghi, o alcune sceneggiature di alcuni episodi di serie TV, tra cui Scrubs e anche Reaper, che è tipo una delle mie serie preferite, e vabbè, lo stesso, anche se è stupida e non conosce nessuno. Comunque confermo che questo film è il 106. È il 106, ok, quindi... Provate a indovinare, prima di continuare, scusate, piccola pausa, provate a indovinare che ruolo farà nel numero 110, che uscirà nel 2023. Non è il sequel di questo? No, c'è un film annunciato per Nicolas, dove c'è Nicolas Cage, che uscirà nel 2023, si chiama Renfield. Provate a indovinare il ruolo di Nicolas Cage. Allora, visto questo film, come minimo dovrebbe essere Liam Neeson. Nicolas Cage fa Liam Neeson? Esatto. No, fa il Conte Dracula. Oh no. Non vedo l'ora. È tornato a fare il vampiro. Scusate, continuando. Nel cast troviamo, poi parlerò della trama che è forse, no, in realtà è molto carina. Il film è un action comedy e dal trailer in realtà si capisce il giusto, nel senso che io ho visto il trailer ma non avevo capito il grado di, diciamo, meta che possiede questo film. E, allora, dicevo, il cast è formato da protagonista Nicolas Cage, che interpreta Nicolas Cage, e già questo dovrebbe valere il biglietto del film. E come coprotagonista c'è Pedro Pascal, che è forse l'unico che recita con delle emozioni nel film. E poi, allora, come, diciamo, ex moglie di Nicolas Cage c'è Sharon Lorencia Organ. Allora, io i due di prima non li ho presentati perché sono Nicolas Cage e Pedro Pascal. Diciamo che se non li conoscete, grazie vostri, cioè, okay. È un problema vostro. Vabbè, che ha fatto un sacco di ruoli come caratterista, ma non è la moglie di Nicolas Cage, immagino. E non è stata una delle mogli di Nicolas Cage, comunque. Quindi, vabbè, avrei preferito la ex moglie. Tiffany Haddish, parente di Luca Haddish, anche lei è un'attrice più o meno famosa. Ho capito il ritardo. Vabbè, scusa. E in realtà io l'ho vista di recente perché ha fatto The After Party, che è quella serie TV della Apple di cui parlavo, e anche il suo compare nel film, che è Ike Barinholtz, che anche lui è abbastanza famoso come attore di serie TV, e anche lui è in The After Party. E poi c'è un'attrice italiana che è Alessandra Mastronardi, che non so cosa abbia fatto in Italia, ha fatto, credo, io credo di aver solo visto To Run With Love, in cui c'è lei, però in realtà non me la ricordo, non so chi sia, però è italiana, porta a casa. E, la trama parla di Nicolas Cage, che è un attore che, diciamo, è nella parte più bassa della sua carriera, tratto da una storia vera. È un attore che è nella parte più bassa della sua carriera, e in cui appunto ha accettato parti di merda per pagare i suoi debiti, ha una bruttissima relazione con la madre e la figlia perché è super egoista, è super... più che egoista, insomma, è egocentrico, ecco, scusate. E insomma, rigira, si ritrova a dover accettare un'offerta di $1 milione per andare a Maiorca, da, insomma, ospite di un milionario, Javi Gutierrez, che è appunto interpretato da Pedro Pascal, e insomma $1 milione per solo presenziare alla sua festa di compleanno. Nicolas Cage accetta perché, insomma, per una serie di motivi, ma il motivo principale è che gli servono i soldi, e si ritrova coinvolto in una storia in cui, diciamo, fatta di rapimenti, FBI e gangster mafiosi. E il film in generale è tutto qui, ed è un film che purtroppo non è andato benissimo. È andato bene come critica, è piaciuto a tutti, come è giusto che sia, ma al box office non ha fatto un cazzo. Poi sarà sicuramente un film guardato e riguardato dalla fanbase di Nicolas Cage, però ecco, il budget si stima sui 30 milioni e il box office ne ha fatti 28,4, quindi insomma è andato malino, ma va bene, ci sta, anche perché da noi poi non è uscito da nessuna parte. Ops. Che dire, io... No, però l'hanno tradotto, quindi... Boh, no, forse è uscito... No, è uscito in streaming sicuramente. No, okay. Non so se è uscito al cinema, però. Ah, no, al cinema non sicuro. Perché poi, ecco, questi sono i dati del box office. Poi, in realtà, lo streaming a pagamento... c'è ancora. Ah, in Italia forse non è ancora uscito. Uscirà domani, forse. Questo. Vabbè. Bellissimo, noi l'abbiamo visto in anteprima, ovviamente, no? No, vabbè, comunque in realtà si trova in un sacco di siti di streaming, tipo, non so adesso se su Prime c'era, ma l'avevo visto anche da qualche altra parte. E che dire, io ho preso un sacco di appunti, però, ecco... Vabbè, non so, ci tenevo a prima avere la vostra opinione, anche se devo dire, devo anticipare che secondo me Nicolas Cage ha raggiunto ha trovato la quadra, diciamo, ovvero ha capito che per fare un film bello, in cui c'è lui, deve fare un film in cui si mema. Memone Nicolas Cage. Esatto. E in effetti ha sia una fanbase sia un certo numero di, insomma, di bibliografia che gli consente di fare questo giochino qua. E questo film secondo me è molto riuscito, però appunto volevo sapere... Il quarto potere di Nick. Esatto. Attenzione. Prego. Andrea, so che non è piaciuto. Ma io volevo dire tante cose... belle, non è vero, sì, volevo dire che, cioè, comunque cose positive, diciamo, in generale, però purtroppo non posso. Il film fa schifo per un motivo semplice, Nicolas Cage parla italiano? No. Sono nazisti. Per colpa di una battuta. Il film è orribile. Oh no, hanno insultato uno dei tuoi film preferiti di Nicolas Cage. Questo lo mettiamo come giochino finale, se indovinate la... indovinate la battuta che ha rovinato il film. Oh mio Dio, non lo Potete so. Risponde... No, no. Va bene. La... Non lo so, Andrea, non saprei. Mi conoscete molto bene, quindi in realtà è semplice. Corin Farrell è un bravo attore. A te piace The Cabinet of Dr. Caligari? Ok, vi aiuto. Il momento di... la mostra dei trofei, cioè il museo di Cage, diciamo. Bellissimo. Face Off. No. Vi arrendete? Sì, mi arrendo, non so. Beh, la battuta, in realtà formata da quattro parole, è Mandy... is a Mandy, masterpiece. Sì. Questa Baffan battuta Andrea, il film più brutto del mondo. Ma visto che è, visto il che film è vero, migliore della storia è questo pure, vaffanculo. È vero, Mandy is a masterpiece, bellissimo. Cos'è che aveva di Mandy, tra l'altro, che non mi ricordo? La motosega. Ah, la motosega. Bello che la motosega potrebbe essere questa dei film di Nicolas Cage. Chi può dirlo? No, vabbè, a me, io, diciamo, anch'io vorrei dire che questo è il film più bello della storia, ma purtroppo non posso, perché purtroppo è bello, nel senso che le premesse del trailer c'erano tutte per fare un film demenziale, bruttissimo, film di merda, proprio ultra Cage. Invece alla fine è un film molto carino, che io, cioè, ho anche riso, i momenti in sì, cui il film voleva farmi ridere, che sì. È una cosa assurda per un film di Nicolas Cage, e quindi non ho avuto quello che mi aspettavo e quindi sono deluso, però sono anche contento. Cioè, sono deluso perché sono contento, cioè perché era un film piacevole, carino, inaspettato, diciamo, mettiamolo così. Ci sta, non lo so, mi è piaciuto. Cioè, non ho molto da dire, sono belle le scene appunto quando rientra nel museo di memorabilia di Nicolas Cage, c'è quella statua orrenda che è esattamente la cosa che comprerebbe Nicolas Cage e subito dopo cerca di comprarla, cioè io lì gli esperti del cervello ho detto no, hanno capito, cioè perché avevo letto che questa era una versione finta di Nicolas Cage. Però non sono tanto lontani dalla realtà. Cioè, no, è veramente... Cioè, secondo me è proprio autoironico nel modo giusto. Cioè, ha preso proprio i meme di Nicolas Cage e ci ha fatto le battute. Cioè, il fatto che lui si bacia a un certo punto è incredibile. Sì, hanno lasciato perdere un po' il... diciamo il discorso del fisco, no, i problemi veri di Nicolas Cage. Ah, beh, no, beh, certo, ovviamente è una commedia, esatto, sì, si sì. Si sono concentrati più sull'immagine di Nicolas però Cage. Però li hanno nominati, gli antipiti, che sì, realmente certo. Aveva. Però potevano concentrarsi su quelli e non hanno fatto. Cioè, hanno anche introdotto addirittura il clone di Nicolas Cage giovane, che è anche un rimando a un film di Nicolas Cage, che è quello di Kaufman. Il film quello lì, Il lato delle orchidee, come si chiama, e... cioè non lo so, è incredibile, cioè anche Pedro Pascal pensavo fosse un personaggio più idiota, cioè più, perché nel trailer facevano vedere solo quella scena col muretto, ma che in quella scena... Che in realtà sì. Nel trailer non fa ridere, a ma me nel film ha fatto ridere. Perché il nel film c'è il contesto, è questo che rende tutto... Cioè, il contesto di quella scena nel film è molto... Cioè, è un crescendo di cazzate, quella... Cioè, è bellissimo, sono entrambi strafatti di... Ma quando lui si gira mentre sta guidando, ma quanto cazzo è bello! No, vabbè, cioè... E anche quando si vogliono uccidere a vicenda, che fanno tutti quanti... No, vabbè. Questo film è... È bello. Il fatto del trucco di lui che si traveste da mafioso italiano e parla italiano. Che parla italiano perché esatto, perché lui è un coppola. No, vabbè, cioè è incredibile. Non so cos'altro dire, guardatelo, cioè. Ah, vabbè, allora, ovviamente ha i suoi problemi perché ce li ha. e ha una scena con la famiglia che è una cosa cringe, quella in cui sono a tavola, è tipo, boh, non lo so. E all'inizio che è un po', cioè all'inizio un po', secondo me ti fa pensare che il film sia diverso. Poi vabbè, il trailer non dice questo. Però all'inizio ti sembra letteralmente un film, insomma, depresso su una carriera fallita di un attore. E in realtà è tipo una cosa, è sia autoironico, sia... sembra quasi una denuncia a lui stesso che fa questo come lavoro, ma allo stesso e dice a tutti che lo sta facendo come lavoro, anche se è un film di merda, ma allo stesso tempo lui è comunque un attore, quindi... insomma, è un film di merda, se ne rende conto, eccetera. Poi questo è l'inizio, passa da un'interpretazione di Neil Patrick Harris, che è una delle cose più brutte che lui abbia mai fatto nella sua vita, perché è... boh. È... non lo so. È Barney brutto. E poi appena arriva a Maiorca è incredibile. Cioè, è il... secondo me è veramente, cioè è piacevole, è un film piacevole che ti fa ridere, che non è scontato, e in più fa un sacco di occhiolini alle cazzate di Nicolas Cage, ma non autocelebrazione, è proprio autironico, bello. Sì, esatto, cioè non è che diciamo Nicolas Cage il più grande attore della nostra generazione, ma perché in realtà neanche lui lo pensa, cioè lui davvero pensa quelle cose, ma si rende anche conto di quanto suonino strambe, no? Tipo il fatto del essere un attore sciamanico, tutta quella roba là, è vero, cioè lui lo dice anche nelle interviste ed ha anche un fondamento ragionevole quello che dice quando lo spiega, ma si rende anche conto che è una cazzata stratosferica. Cioè, pazzo. Sicuramente non è una cazzata a livello di Jared Leto che manda i profilattici usati a Will Smith, però cioè, è una cosa d'attore, no? Cioè, è una... sì, e comunque il fatto che abbia fatto sta roba vuol dire che comunque lui stesso non è... cioè, non lo fa seriamente al 100%, nel senso lui stesso sì, ci crede davvero. Però si rende conto appunto che si può fare dell'autironia su questa cosa, perché è un po' particolare. Nicolas Cage è un bravo attore, inutile, cioè sa recitare, sa che recitare è una cazzata, non è come da oh, mezzo sì. Stanislavski, ah. E lui lo dice, cioè, tipo, lo faccio come lavoro. Cioè, veramente, cioè, Anthony Hopkins poteva benissimo dire io per recitare in questo film sono diventato vecchio quando ha fatto Father, no? Per dire il metodo Stanislavski. Esatto. Invece no, Anthony Hopkins, il più grande attore della nostra generazione, dice io li leggo le battute, cioè le legge, cioè, ovviamente le legge 200 volte finché non le dice senza pensarci, ovviamente bla bla, è comunque però, Anthony Hopkins, è comunque Anthony Hopkins, però è un lavoro e Nicolas Cage lo fa divertendosi, diciamo. Sì, è figo. Non so, mi è proprio piaciuto, mi ha stupito. Pensavo veramente fosse una cazzata. E pensavo fosse un'autocelebrazione sua di puttanate. Invece no, è stupido, è carino. E poi c'è la scena in cui si bacia, che ripeto. C'è una scena in cui Nicolas Cage bacia Nicolas Cage, che... fantastico. ti esplode il cervello, è così oltre che... ma mi dicevi che appunto lui non doveva fare Nicolas Cage? C'è questo meme in giro che inizialmente loro non pensavano che Nicolas Cage acconsentisse, tant'è che lui tipo ha rifiutato 3-4 volte e quindi avevano una mezza idea di farlo fare a qualcun altro Nicolas Cage, sarebbe stato ancora più assurdo e brutto, però sono contento insomma che alla fine abbia accettato di farlo. Ma quindi diciamo per la beta transitiva questo vuol dire che Mandy è un bel film, Andrea, ti rendi conto? Sì. No. E invece volevo chiedervi cosa ne pensate del finale. Il finale è un po' lungo secondo me. No, però cioè, c'è una sorta di twist che non è un twist. Ah sì, vabbè, carino. È molto carino, sì, sì. È una roba tipo molto anni 90, è veramente carina, mi è piaciuta molto. Anche perché ovviamente è completamente surreale. Mi ha ricordato un po' Tropic Thunder, non so perché. Esatto, esatto, esatto. Che alla fine molto vincevano l'Oscar per il miglior documentario. Ok, ora lo so. No, io non me l'aspettavo che finisse così strano e carino. Ora però comincio. A me adesso è venuta voglia di vedere Paddington 2, devo guardarlo. Non l'avete visto? Io non ho visto neanche l'uno, non so neanche cosa sia Paddington. Raga, prossimo episodio comunque ci guardiamo entrambi Paddington. Io me li ricordo. È in realtà facciamo Paddington e The Cabinet of Dr. Caligari. adesso devo guardarli, devo capire. Entrambi Paddington dovete guardarli perché così diventerete uomini, come dice Nicolas Cage. È un rito di passaggio. Cabinet of Dr. Caligari mi sa che è super corto. Uno dei film più vecchi che hanno mai fatto. Dovevi cercarlo. Sì, tipo del 1920. Cioè, è talmente vecchio che si chiama tipo un film espressionista, cioè tipo un quadro. Per capire quanto è vecchio, cioè roba tedesca. No, raga, è talmente vecchio che la tizia lì, Angela Coso, era minorenne. Chi è? La signora Fletcher lì, oddio. Angela. Ah, ok. Perché lei era tipo appena nata. Oddio. Vivi altri appunti, caro? Ma in realtà, cioè no, nel senso che alla fine ho scritto tante volte bellissimo, bellissimo, bellissimo. E... tipo quello su Shining, Jack, il mattino del esatto, all work and no play, make Jack a dull boy. Non ti sei cagato Neil Patrick Harris, povero? No, vabbè, l'ho detto che a me ha fatto cagare. Sì, perché... meglio che lo cacciavo. No, è perché cioè fa una parte molto piccola e fa il tipico agente di Hollywood di un attore famoso che ti deve dire praticamente quello che pensi, tipo è una cazzata, no, fai questo, ti dà 1 milione, no, fa schifo, sì, hai ragione, fa schifo. E, però sembra un Barney slavato, cioè io so che Neil Patrick Harris è bravo cazzo. Ho capito. E qui mi sembra un po' lo mettiamo perché insomma ci sta e con Neil Patrick Harris sei bellissimo e niente. No, Pedro Pascal mi ha stupito perché diciamo che vabbè lui è un attore vabbè insomma era diventato famoso, era famoso prima, però è diventato famoso soprattutto per una serie TV in cui lui non c'è mai, cioè non si vede mai in faccia. E in realtà mi ha stupito, cioè sa recitare una commedia, che non l'avevo mai visto recitare commedie, e fa ridere. E... quindi bene, bravo, tanta roba. Non so, magari voi adesso eravate fan di Pedro Pascal anche prima. E quindi no, Pedro Pascal... Lo è sempre stato, è bravissimo. È sempre stato bravo. No, Neil Patrick Harris perché... Vai, Andrea. No, io anche... No, perché io le serie TV non le ho viste, quindi tutte quelle dove ha partecipato non lo conoscevo abbastanza. Ah, per farvi capire, lui non è... Cioè, ha fatto Wonder Woman, il secondo. Scusate, ambulanza. No, ha fatto di film anche coso Golden Circle, Kingsman. No, Kingsman, appunto, cioè, sì. Per dire, non è che abbia fatto sti film in cui devi saper recitare. È bravo. Cioè, ha fatto la grande muraglia, quello con Matt Damon. Davvero? È inchiavabile, sì. Comunque, no, più che altro Neil Patrick Harris diciamo che negli ultimi film che ha fatto non è l'attore più bravo. Sia questo che Matrix. Cioè non è l'attore più bravo tra quelli che ci sono lì dentro. Sono film che ha fatto dove ha recitato meglio. E sono tipo Gone Girl. Cioè non lo so. Ultimamente non sta facendo il suo... Non sta figurando al meglio, però... Ci sta, cioè in questo film c'è anche poco lui, tipo 2 scene fatte. Sarebbe stato meglio se si avesse cioè, se anche lui fosse stato se stesso. Cioè, il Patrick Harris. Sì. Che fa se stesso, sarebbe stato. Però non l'avrei mai visto come amico di Nicolas Cage. Ma no, perché? Ci sta. Non lo so. Mi sembra molto come quando Coso interpretava se stesso, come si chiama, quello di Due Uomini e Mezzo. Charlie Sheen, quando interpretava se stesso, gli mettevano degli attori di fianco, famosi, come i suoi amici, ma non è credibile, Charlie Sheen non ha amici. La cocaina è sua amica. Esatto. Ai vincitori non serve, non serve. No, non lo so, mi sa di tipico rompicazzo e... Vabbè. E niente, devi fare un giochino, Jacopo. Ho un giochino che Salla sa che ci ho impiegato circa 200 anni a farlo. Non pensavo ci impiegassi così tanto a prepararlo. Il giochino è questo. Io leggerò dei commenti, tre commenti, diciamo, per ogni film, dal trailer di un film di Nicolas Cage. Quindi io sono andato su YouTube, ho aperto dei trailer dei film di Nicolas Cage, ho preso tre commenti top, diciamo, tra i primi, sotto questo trailer su YouTube, e li leggerò in ordine di quanto fanno capire il film. Ovviamente ho tolto il nome del film da questi commenti, così non si capisce subito. Quindi leggerò prima il primo, aspetto un attimo, poi leggo il secondo, aspetto un attimo, poi leggo il terzo. Il terzo, diciamo, ho fatto in modo che si capisca molto facilmente che film è. Quindi voi dovete cercare... Non conosco i numeri film di Nicolas Cage. Salve. Dovreste saperli tutti questi film. O l'avete visti, o l'avete... Cioè, o l'avete visti o l'avete visti, questi film qua scelti. Oh no. Allora, facciamo un esempio. Partirò dal primo esempio, che è questo film, no? Quindi Il Talento di Mr. C, o Bad Boy for Massive Talent. Il primo commento è: finalmente un film dove Nicolas Cage può mostrare il suo vero vuoto. Quando dico vuoto, vuol dire che lì c'era una parola che ho dovuto togliere. Se preferite voi posso dire blank, però come vi pare, insomma. Ok. Se per voi è più chiaro dico blank o se no vuoto. Ok. Voi avete tre possibilità, cioè voi potete provare a indovinare solo tre volte per ogni film. Il primo che indovina vince, però. Ok? Quindi vabbè, il primo commento di questo esempio sarebbe stato: finalmente un film di Nicolas Cage può mostrare il suo vero blank. Bene. Perché è talento. Bene. Sarà meglio che venga nominato per un Oscar. Nessuno può recitare come Nicolas Cage, meglio di Nicolas Cage. Nicolas Cage che... è vero. Nicolas Cage che interpreta se stesso è il ruolo più innovativo ma difficile che abbia mai fatto come attore, perché effettivamente è difficile recitare Nicolas Cage, è un personaggio complicato, e quindi questo era l'esempio. Quindi partiamo con il vero gioco, siete pronti? Va bene. Sì. Ok, primo film. Vi ricordo, avete solo tre possibilità, ma il primo vince, ok? Che ansia. Se non vi sentite sicuri, aspettate che dirò gli altri, quindi questo è solamente il primo commento. Questo film è veramente profondo e di atmosfera. Non fatevi fregare dal titolo, è uno dei migliori film di Nicolas Cage da anni. Questo è molto generico come commento, ma partiamo tranquilli. Vado avanti? Per forza. Ok, secondo commento. Questo è un film davvero commovente, ben recitato e toccante. non riguarda solo un blank, riguarda la perdita di umanità in un'era di avidità e profitto. Paroloni. Oh no, intervista col vampiro. No. Big. Andrea l'ha azzeccato, grande. E questo Andrea, l'ultimo commento era: rubare il blank di Nicolas Cage è più pericoloso che ammazzare il cane a John Wick. Quindi sarebbe stato... Pig. Pig. Ok, secondo film. Ne sono 5 o 4 in totale. 5. Non è il film che 2020 ha chiesto, ma quello che si merita. Primo commento di questo film. Vabbè, ma questo sai già cosa che è nel 2020. È un film del 2020, ed è un film che il 2020 si merita. Questa sembra una storia pensata da un bambino che fa fare capriole ai suoi pupazzetti. Questo vale un po' per tutti i film di Nicolas Cage, sai? No, questo film in particolare. Vado avanti, vado al terzo commento? Vai. Tu sei il combattente di... Jiu-Jitsu. Vabbè. Dopo finivo. Sì. Ok, sei il combattente di Jiu-Jitsu prescelto e poi fa una capriola all'indietro. Devo essermi perso quella lezione di Jiu-Jitsu. Che schifo. Beh, è il più veloce salto, si no? merita. Terzo film. Ho fallito un test antidroga dopo aver visto questo film, ma non mi sono mai drogato. Questo è il primo commento. Nessuno vuole provare? Vado avanti? Vado avanti. Quando Nicolas Cage è la persona più sana nel film, sai che sarà interessante. Willy's Wonderland. No? Salla ha fatto... Cazzo! Salla... Secondo strike. No. Tre per ogni film, oh, piano. Tre per ogni film. Ah, allora provo. Mandy. Andrea di nuovo, cazzo. cazzo, Andrea. Ok, forse hai ragione, forse tre per ogni film è troppo, dovevo fare tre sbagli in totale, però vabbè dai. Il film più assurdo che io abbia mai fatto, Nicolas Cage. Non è possibile, è Ghost Rider. Esatto, considerando quando sono andato a fare i test dei suoi film siamo messi molto bene. Non è direi Ghost Rider, non allora. È Ghost Rider, quindi strike one per Salla. Se Andrea non vuole provare, vado avanti. Provo, Prisoners of Ghostland. E Andrea ci ha azzeccato un'altra volta. Andrea è chirurgico. Salla, devi recuperare, altrimenti... Ma io non sono un esperto di Nicolas Cage, dovresti saperlo. Ok, sono sei film, dai, ne facciamo sei, così se Salla ne azzecca due, siamo pari. Perché nessuno parla del fatto che il personaggio di Nick Cage è interpretato dal suo alter ego Nick Rage? Ripeto, anche questo è valido per tipo metà dei suoi film. No, passo. Andrea passa, Salo non ci prova? Ok. Non ci provo. Non è intrappolato qui con loro. Sono loro ad essere intrappolati. È Willy's Wonderland. Grande Salo. Willy's Wonderland. E l'ultimo era aspettative, ah, beh, sì. Five Nights at Freddy's, realtà una notte con Nicolas Cage. Dove sono notti pupazzi. Ultimo film, Salla... quel film è il più bello di questo, però. Ultimo devo film, dire. Quel film è più bello di questo? È più bello di The Unbearable Weight. Sì, è più assurdo. Purtroppo. Ultimo film, Salla, mi raccomando, questa è la tua unica chance per pareggiare. Non mi interessa cosa dicono di questo film. Questo film è un capolavoro ed è parte della mia infanzia. Il mistero dei templari. Sbagliato, ma buona, ottima. Cioè, potevo scegliere quello come ultimo film. Salla, vuoi provare? Vado avanti. No, non lo so. Okay. Blank è un film fantastico basato sulle preghiere di quelli che cercano il significato dell'amore contro il male. Però se l'apprendista stregone, ti dico solo questo. No. diabolicamente bello è anche il sequel. Andrea? Il sequel. Salla, Andrea, potete continuare. Salla, tu hai stato solo uno. No, il sequel come se. Non ha fatto tanti sequel. A parte il Mistero dei Templari. Sarà il 2 il Mistero dei Templari. Mistero dei Templari 2, ma non c'è un sequel di quello. No, allora è Ghost Rider. Grande Salla. Ghost Rider. Ma che schifo, dai, non puoi usare questi commenti. Cioè, infatti. L'ho fatto apposta perché poi l'ultimo era il film di supereroi più sottolodato di sempre, perché Ghost Rider è il film di supereroi migliore della storia. Onestamente, cioè, quanti sequel ha fatto Nicolas Cage? Perché lui è bravo, nel senso... Mi sono questi due. Lui è bravissimo perché fa merda, ma non è che si ripete, cioè, comunque... E tra l'altro il sequel fa cagare, il sequel di Ghost Rider. Sì, è peggiore del primo, che è brutto il primo, comunque. Vero. È il film più sottovalutato della storia, il primo, cazzo. Comunque, per tutti i possessori, e so che in ascolto sono in tanti, questo film di cui abbiamo parlato stasera vi dice cosa ne pensa Nick Cage del suo face pillow lì, quello, il cuscino, quello che fa vedere che se giri c'è la sua faccia. Beh, quello poteva mm-hmm. anche lasciarlo perdere, cioè. Quindi non hanno bisogno di infierire, cioè. No, vabbè, io mi aspettavo dicesse bellissimo, invece non gli è piaciuto. Vabbè, niente. Ci sto. E vi ricordiamo che Nicolas Cage ha vinto un Oscar, comunque, no? Perché adesso stiamo qua a prendere in giro. Mm-hmm. E volevate dire altro? No. Perfetto. Allora, grazie di aver seguito, grazie di aver parlato con me di Nicolas Cage. E noi ci vediamo sabato prossimo con un bel film di nuovo. E la settimana prossima. Ciao ciao. Ciao. Ah, non devo chiudere Craig. Craig stop. Craig stop.